get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera e ben sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Quella che state, che ascolterete tra poco sarà la nostra 191esima trasmissione. Chiaramente per nostra si intende del coordinamento lesbiche romane che materialmente viene qui dietro i microfoni a parlare ogni martedì. Anzi, ora che ci penso, questo dicembre compieremo gli anni, e già perché, se non ricordo male, la prima trasmissione risale addirittura al dicembre del 97, quindi, care tutte, ci stiamo facendo compagnia da ben 9 anni. L'anno prossimo faremo una festa, una mega galattica, se Radio Onda Rossa continuerà a permetterci di fare questa collaborazione. Però ci tengo a precisare che in ogni caso in quel nostra che ho detto prima non ci siamo soltanto noi del CLR, ma anche tutte voi che ci state ascoltando, e tutte coloro che con tempi e modalità differenti hanno collaborato e continuano a collaborare con noi. Stasera qui in studio siamo io, Caterina e Pina, ma c'è anche una gratitissima ospite che ci farà compagnia in questa puntata. Sì, perché oggi vi parleremo della prossima iniziativa che abbiamo organizzato nella nostra sede al Centro Femminista Separatista all'interno della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Questa iniziativa l'abbiamo realizzata grazie ad una proposta dell'ospite di questa sera, che è Pina Nuzzo. Buonasera Pina. Ma magari se parli nel microfono ti sentiamo tutti quanti. Buonasera. Allora, nel corso della trasmissione avremo modo di spiegare meglio di che cosa si tratta, anche perché questa iniziativa non ha le stesse caratteristiche di quelle che abbiamo portato avanti finora. Infatti la sempre più grande risposta positiva a tutte le iniziative politiche, aggregative e ludiche che abbiamo fin qui proposto ci hanno fatto credere che era arrivato il momento di fare anche qualcosa di ancora diverso. Saranno infatti, se non sbaglio Pina, una serie di incontri, no? Sì, quindi, certo. Quindi un corso con caratteristiche per noi molto importanti e che vanno a toccare quella sfera ancora purtroppo così poco esplorata, che è quella dell'arte. Arte che chiaramente verrà messa in relazione al mondo delle donne. Ma non voglio anticiparvi niente, in modo che sarà la stessa Pina Nuzzo a svelarci i particolari coinvolgenti dei suoi incontri. Non ve ne andate, rimanete con noi, perché adesso ascoltiamo un brano musicale che vi darà anche modo di prendere carta e penna, così qualora vogliate appuntarvi alcune cose che verranno dette avete la possibilità di farlo. Vi ricordo anche il nostro numero di cellulare sul quale potete inviare i vostri messaggi, che è 338-4146-682, ed il numero di Radio Onda Rossa, che è 06 49 17 50. Entrambi i numeri sono a nostra disposizione fino alle ore 22. Bene, allora adesso ascoltiamo subito un brano musicale, che è un brano molto bello di Erika Badu, dal titolo Apple Tree. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you. The night was long, night went on. People cooling out to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Hi. See, I picked my friends like I picked the fruit. Again, he told me that when I was over here, I don't walk around trying to build a night. I don't waste my time trying to get what you got. Working pleasing egos, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. Do-ee, do-ee, do-ee. And if you don't want to be down with me, you don't want to be my apple tree. And if you don't want to be down with me, you don't want to be my apple tree. And if you don't want to be down with me, I'm planting seeds so I reap what I sow. You know, you know. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, must have the keys to the land of Rolling Stone. My friends like a pick of fruit. And Gandy told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to pay what I'm not. Can't stand a motherfucker trying to get what I got. I work and please the egos, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flash free like a willow tree. The way you lay your me down me. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. Over here, I want y'all to say, oh my, my, my. Come on. Oh my, my, my. On this side, y'all say, oh my, my, my. Oh my, my, my. In the middle. Così mi senti? Sì. Ecco, allora era chiuso. Tutto a posto, abbiamo risolto il problema tecnico, come al solito. Tra me e Caterina facciamo sempre qualche inguacchio. La colpa è sua però, eh? Mai mia. Vabbè. Sembra vero. Allora, ricomincio dal capo. Ecco. Buonasera a tutte, sono Pina. E prima di iniziare la nostra chiacchierata, non sono Pina Nuzzo, con Pina Nuzzo. Sembra uno scherzo, ma vi assicuro che invece non lo è. Il problema è che ci chiamiamo nello stesso modo, per cui anche se mi rendo conto che vi potrebbe far sorridere dire sono Pina ed intervisto Pina, vi assicuro però che la trasmissione è serissima. Allora, ritornando a noi, io sono Pina del CLR e con noi c'è Pina Nuzzo. Saluto Pina. Buonasera. E le do il benvenuto a questi microfoni. Grazie. In realtà non è la prima volta che sei qui con noi, no. Pina, perché abbiamo già avuto il piacere di ospitarti in passato, ma per motivi differenti da quelli di oggi. E a questo punto credo che sia giusto leggere qualcosa di te, cioè una sorta di bigliettino da visita per far capire meglio a chi ci ascolta chi sei e perché a noi fa così piacere lavorare con te. E per fare questo prendo in prestito la breve biografia che tu ci hai mandato. Allora, Pina Nuzzo, pittrice e da anni impegnata nella politica delle donne. Nel 1975, giovanissima, è responsabile del centro donna dell'Udi di Modena e sarà poi sempre attiva nell'associazione. Dal 1978 a Lecce, quando ritorna nel Salento, sua terra di origine, e a Roma poi, ricoprendo diversi ruoli a livello nazionale. Scusate. Attualmente è responsabile della sede nazionale in via Arco di Parma a Roma. Dal 1986, parallelamente con questa attività, ha cominciato anche il suo lavoro di pittrice, esponendo in alcune gallerie, in molti luoghi di donne, anche con dibattiti sulla problematica delle donne artiste. L'iniziativa a cui si presta per il CFS di Roma ha un felice precedente nel progetto già realizzato nel 2003 con un gruppo della Casa delle Donne di Pesaro. Allora, io mi sono letta anche l'introduzione al corso che hai scritto in occasione di questa iniziativa, ma credo sia meglio andare per ordine. Anche se penso che sia molto bello ciò che scrivi, crediamo sia preferibile dare alcune informazioni sull'organizzazione di questo corso, anche perché saperne di più può far venire anche ad altre la voglia di parteciparvi. A volte, sai, un discorso sull'arte può spaventare, anche perché molte di noi, e io in prima persona, si reputano un po' profane. Non siamo esperte, ma forse soltanto appassionati fruitrici. Quindi forse è meglio spiegare che il tuo corso non è per le addette ai lavori. E quindi per il momento ci farebbe piacere che tu ci raccontassi come è pensato e come è strutturato questo corso. Sì, intanto grazie per l'accoglienza, perché siete sempre molto carine, e mi scuso per la voce perché ho avuto un calo di stagione. E intanto parto dal titolo di questo corso, che è La donna spettatrice nell'arte, dell'arte. E non è un caso che io abbia scelto questo titolo, proprio per segnalare subito, fin dall'inizio, che non è un corso rivolto alle pittrici o solo alle pittrici o ad addette ai lavori, ma è un punto di vista di chi l'arte la guarda. E tutte noi, molte di noi, hanno la passione di visitare le mostre, di vedere dei quadri, e solo io penso che lo spavento, il senso di dire non capisco, che provavo io all'inizio, probabilmente è più comune e diffuso di quanto si dica, perché magari lo possiamo immaginare ma non si dice. Allora io ho accumulato negli anni un'esperienza e una sapienza, se posso usare questa parola, certo, dovuta al fatto che oltre che a una grande passione per la politica, ho una grande passione per l'arte, per la pittura, nel senso che dipingo. E quindi per me capire l'arte, capirla direttamente, era prioritario, perché se no non avrei saputo come dipingere. Mi chiedevi tu come era strutturato? Sì, anche come strutturato. Allora, io ho pensato di a questo incontro, a questo corso rivolto solo a delle donne, e pensato in 6 incontri con scadenza quindicinale ogni giovedì, comincia il 30 di novembre, e quindi ogni 15 giorni, sempre di giovedì, ci sarà questo incontro, con dei titoli specifici, perché intanto, certo, 6 incontri sono impegnativi, ci vuole uno sforzo, però è anche vero che può essere appassionante seguire il filo che io mi propongo di svolgere insieme a voi. E quindi, insomma, in effetti hai già pure risposto alla domanda che ti volevo fare: quanto dura? Perché in effetti 6 incontri, quindi inizieremo il 30 novembre e finiamo poi il 22 di febbraio, con in mezzo una visita collettiva ad una mostra. Magari io posso anche dire qualcosa di più preciso rispetto, certo, a questo, certo, corso, perché la cosa che vorrei sottolineare è che spesso tra le artiste, tra chi è un po', come dire, addentro al discorso, si fa fatica ad accettare l'idea che l'arte sia sessuata. Che cosa voglio dire? Che l'arte certamente è arte, ci sono delle opere che sono straordinarie, però la cosa che può essere appassionante e anche dirompente è capire che un'opera d'arte può mandare dei messaggi che sono sessuati, non c'è un'altra parola, e nello stesso tempo noi accettarli in quanto arte, ma capire che quel messaggio non è un messaggio che ci comprende. È, certo, un discorso questo molto complesso e molto è più difficile da dire che da vedere, e infatti nel corso utilizzeremo delle immagini che guarderemo insieme, e per questo è anche prevista una visita a una mostra insieme, perché questo ci permetterà di ragionare proprio sull'immagine. Certo, certo. Ottimo. Senti, tu ci hai chiesto, insomma, di che questo corso fosse svolto a numero chiuso, anche se per la verità abbastanza largo. Perché? Ma intanto perché la cosa importante è che, come dicevo prima, il discorso cominci e finisca con le stesse persone, donne. Cioè, perché chiaramente appunto sarà come un prendersi per mano e fare un pezzo di strada. E io vi volevo leggere i titoli degli incontri, che forse spiegano anche e raccontano un po' di più. Il 30 di novembre noi apriremo con un incontro che si chiama La donna musa, ispiratrice, spettatrice femminile. Il femminile ovviamente è in corsivo, nel senso che il femminile, per esempio, non è dato in natura. Cioè il femminile non è l'essere femmine, certo. Il femminile è la costruzione di un modo di essere delle donne che non nasce certamente dalle donne, ma è la cultura sulle donne, certo. E quindi anche il guardare l'arte può essere un modo, può avere un modo femminile, così come è chiaro che dietro, c'è la frase banalissima, no? Quella che si dice: dietro un grande uomo c'è una grande donna. Bene, potremmo dire che dietro un grande artista spessissimo c'è una donna, anche un grande, perché vedremo anche questi grandi nel senso di chi riesce a sostenere tanta fatica, però sicuramente molti artisti non avrebbero potuto fare quello che hanno fatto senza la presenza di una donna. Se posso andare avanti, certo. Continuerei. Il secondo incontro è il 14 dicembre e ha questo titolo: La modella, bambina, adulta, prostituta. Per esempio, la figura della modella, le donne che noi vediamo rappresentate nei quadri, più quelli che ci vengono, che ci possono venire in mente, dalle Madonne ai nudi, hanno avuto delle modelle, cioè delle donne che hanno posato realmente. Era un mestiere, certo. In genere queste donne erano spesso le amanti o donne che facevano le prostitute, o comunque il mestiere di modella era parificato a quello della prostituta. Però è anche importante vedere come questo mettere a disposizione il proprio corpo, perché questo poi era a tutti i livelli, ha nutrito l'arte del genere maschile, perché la grande arte è anche questo. Certo. Però non ci dire tutto adesso, no. Perché sennò poi... No, io se mi permetti volevo fare una piccola precisazione, soprattutto rispetto anche alla mail che abbiamo mandato noi per avvisare di questo corso. Siccome noi sulla mail avevamo detto che c'era un termine per l'iscrizione, però a noi sono arrivate diverse telefonate e diverse comunicazioni che ci hanno detto: noi veniamo e ci iscriviamo direttamente il 30. Allora, diciamo che facciamo questa sorta di proroga fino al 30, mentre invece noi avevamo dato una scadenza precedente. L'unica cortesia che chiediamo è quella: se magari venite proprio il 30 per fare l'iscrizione, venite una mezz'oretta prima dell'inizio del corso, perché sennò poi togliamo del tempo alla... sì, dimmi Pina. No, io su questo vorrei fare un'ulteriore precisazione, proprio perché Pina ha scelto che sia a numero chiuso, esatto. Quindi possiamo arrivare fino a un massimo di 30, esatto. Sarebbe utile comunque, al di là poi dell'iscrizione reale con, materialmente fatta con il contributo che vi chiediamo, insomma, per le spese. Il problema rimane, perché poi se quel giorno si presentano più di 30 donne, per noi diventa un problema, esatto. Ecco perché sarebbe importante che ci faceste sapere prima l'intenzione di venire, in modo che a un certo punto poi bloccheremo le iscrizioni, certo, perché certo. Poi non lo so se Pino sarà disposto in futuro a farne un secondo di corso, ma quello ci deve essere la sua disponibilità, non lo possiamo dire. Spettatrice dell'arte 2, scusa, hanno fatto lo squalo fino a 7, Rambo fino a 8. Intanto vediamo il primo come va. No, sicuramente benissimo. Grazie. Ma sì, insomma, io mi aspetto che ci siano delle donne, ma adesso vediamo, non limitiamoci subito. No, io farei una piccoletta sì, pausa. Vogliamo fare una breve pausa, vogliamo ascoltare un brano musicale? Sì, dai. Io avevo pensato di fare una gentile omaggio alla nostra ospite, scegliendo una cantante tarantina, che è Mariella Nava, con una canzone abbastanza vecchiotta, devo essere sincera, perché credo che sia del 98, però ha delle parole molto belle, perché è un inno comunque alla voglia e alla volontà di riprendersi in mano. Il titolo è Il nodo, la gabbia e il seme, ed è di Mariella Nava. Bene, ascoltiamo. Thank you. capire, cambia gioco, non è più tempo, no. Allora, proseguiamo la nostra chiacchierata con Pinanuzzo. Io ho altre domande da sottoporti. Per esempio, mi viene in mente, dopo tutto ciò che hai detto e anche grazie alla conoscenza diretta che ho di te, che un lavoro del genere, sto parlando del corso chiaramente, ha origini lontane. Mi sembra di aver capito che la tua molla sia stata proprio la tua passione per la pittura. Questa passione ti ha dato la possibilità di intravedere una diversa modalità del guardare. Allora, tu hai scritto una frase molto bella che dice: sono partita dalla mia esperienza di pittrice per riflettere sulla donna come spettatrice. Nel corso degli anni mi sono fatta molte domande su quello che guardavo e sul suo significato. Infine mi sono imposta di uscire dal mutismo in cui regolarmente sprofondavo e che era determinato dal fatto che tra me e l'opera si inserivano tutte le informazioni e le nozioni di cui sono in possesso e che mi imponevano un modo precostituito di guardare e di sentire. Ti va di spiegarci meglio che cosa intendi? Sì, certo. Quello che io trovo fastidioso, che trovavo insopportabile, era della pretesa di assegnare alle opere un linguaggio appunto asessuato, che parlerebbe indifferentemente agli uomini e alle donne. Così come trovo che veramente insopportabile la concezione molto diffusa che l'artista, quando si dice artista ovviamente si pensa a un maschio, in quanto tale, proprio perché un artista, assume in sé anche il femminile. Questo a volte mi capita, che proprio anche delle donne, riferendosi a un artista, dicono: fa quella cosa, ma lui poi è tanto femminile, la sua parte femminile. Esatto, sì. Quindi tu hai questa, come dire, questo doppio rovello, per cui loro sono artisti e hanno pure la parte femminile, anche la tua. Questa cosa mi faceva sono onnipotenti. Sì, assolutamente. Allora ho cominciato a riflettere e mi sono detta: perché gli uomini hanno bisogno sempre di divorare anche la parte delle donne? E quindi questo femminile che ci viene restituito è rimasticato. E soprattutto per una pittrice, guardare delle opere grandissime, perché chiaramente qui non mettiamo in discussione neanche nel corso la grandezza o il posto che alcuni artisti hanno nella storia dell'arte, quello non si tocca. Quello che voglio rileggere insieme ad altre donne è i vantaggi di cui hanno goduto gli uomini per potersi chiamare artisti e diventare artisti. Prima fra tutte la genealogia. Che cosa voglio dire? Che gli uomini si sono sempre sostenuti: le scuole, il maestro, l'allievo, il rimando, il richiamo, quello che veniva chiamato tanti anni fa un mondo omosessuale maschile, inteso come omosessualità, il rimando reciproco. E la cosa curiosa, che è l'altro aspetto per me molto intrigante, nel senso che ci ho passato anni a pensare, è che questa mediazione avviene assolutamente attraverso corpi femminili, anche nella rappresentazione. E quindi a volte ti trovi a guardare un dipinto, a vedere un nudo di donna, e non capisci subito che quel nudo non parla alle donne, ma è un linguaggio, è uno strumento per parlarsi tra uomini. E però tu che guardi, tu che sei una donna, in qualche modo ti confronti, ti misuri, e se in più sei anche una pittrice. Beh, è molto difficile in questo gioco incredibile di rimandi e di riflesso e di specchi trovare il tuo vero corpo e poi dipingerlo. Certo, certo. Ma io non vedo l'ora che cominci questo corso. Allora, a questo punto mi viene spontanea un'altra domanda, no? Quanto ha inciso il tuo essere femminista in questa rielaborazione del guardare? Perché è come se tu avessi operato una rilettura della lettura. E questa pratica, secondo me è importante sottolinearlo, di riesaminare il dato di fatto o lo scontato, è una modalità propria del femminismo. Femminismo che mette in discussione quanto si spaccia per assodato e imprescindibile. O sbaglio? Certo, e permettimi di ripartire da un ricordo di me bambina. Certo. Io sono stata fin da subito molto brava in disegno, fin da bambina ero capace, tanto che in tempi in cui i bambini avevano pochi giocattoli, insomma, a me fu regalato subito la scatola, quella Giotto famosa con i colori, perché ero brava. E però avevo sempre questa... Già da piccola pensavo, ho detto: ma io cosa posso fare? Cosa posso diventare? Non mi veniva mai in mente di dire di me: io posso diventare, posso essere un artista, perché non avevo nessun esempio, nessun rimando. Non era contemplata. Esatto, al massimo quello che vedevo era mia madre che faceva dei fiori, peraltro era brava a livello, come dire, molto dilettante, però io capivo che non volevo quel livello, ma non riuscivo a capire quale altro. Anche perché le uniche immagini che avevo erano quelle della chiesa del mio paese, no? E quindi, come dire, come si poteva colmare questo mio desiderio avere il desiderio di la voglia, la passione che avevo per il colore, per le immagini, per la pittura, e poi io cosa sarei diventata? Quindi a un certo punto io ho fatto finta di non saper disegnare. Per anni ho cancellato questa mia capacità. Poi sono cresciuta, sono diventata grande, ho incontrato il femminismo E con le donne ho cominciato a riappassionarmi a fare il volantino, lo striscione. Io mi ricordo un tuo manifesto, ce ne siamo accaparrati, ce l'abbiamo all'interno della Casa Internazionale delle Donne, il tuo manifesto. Perciò. Sì, per anni ho fatto solo questo. Cioè il mio bisogno di raccontarmi è passato attraverso la politica. Però poi a un certo punto ho detto no, io devo affrontare questa mia... Insomma, devo decidere se io sono una pittrice o no, e allora ho dovuto rispondere a quelle domande che avevo in sospeso, non tanto alla mia capacità tecnica o alla capacità di usare proprio i materiali, quanto di dire io da dove ricomincio, da dove comincio. Allora ho cominciato, quindi hai ragione tu quando dici che il femminismo è stato a che fare, cioè io con il femminismo ho imparato a farmi le domande che spesso non si ha il coraggio di farsi, perché sono domande banali, sono domande semplici, e quindi ripartendo da quelle mi sono messa davanti ai quadri e ho cominciato a dire: il sentimento che io provo di fronte a certi quadri, a volte di fronte ad alcuni quadri io mi chiudevo come ci si chiude di fronte a una violenza. Pur riconoscendo che quel quadro è straordinario, cioè che anzi è talmente straordinario che questa violenza mi arriva in maniera assolutamente netta. Straordinaria, netta. Quindi continuamente dovevo tenere insieme la mia lettura e sapere che lì c'era qualcosa di grande dal punto di vista artistico. Ecco, la politica mi ha dato l'ardire di farmi le domande e di fronte a un'opera d'arte sapere, questa è la risposta, cioè che io sono una spettatrice sessuata e che chi dipinge ha un sesso. Che non mi sembra poco, insomma. No, no. Certo. Molte contesteranno questo, ma secondo me proprio a partire da una discussione anche su questo punto che si può anche confrontarsi. Ma guarda, noi anche per storie personali siamo anche abituate al neutro, che poi in realtà è un maschile, no? Quindi un'assoluta mancanza di riconoscimento della tua sessualità, quindi con noi sfondi una porta aperta. No, beh, certo, non credo che anche chi ascolta questa radio, sicuramente sono terminologie che implicano ragionamenti che sicuramente sono già stati affrontati, per cui qui non avrai critiche, insomma. No, poi voglio dire, no, chiunque poi voglia farle, ci mancherebbe, siamo qui apposta e pronte per ogni tipo di domanda. Io sei stata molto gentile, ma io voglio farti però un'altra domanda, ed è una domanda che mi è venuta in mente qualche giorno fa, e non pensiate che voglia necessariamente politicizzare tutto anch'io, e neanche che, visto che sono lesbica e per di più pure femminista, veda per forza aspetti discriminatori dove si suppone non siano presenti. Forse sarà pure vero, però rispetto a ciò che mi è venuto in mente, quindi chiedo a te conferma di questo. Allora, qualche settimana fa c'è stata una manifestazione contro il precariato, una bella manifestazione devo riconoscere. Allora, la condizione della precarietà significa sostanzialmente che non si ha garantita la minima certezza, ma all'interno della condizione di precarietà è stato dimostrato che per le donne c'è un'ulteriore componente, che è quella della mancanza di riconoscimento. Questa mancanza si evidenzia attraverso la constatazione che sussiste una diversità di trattamento economico tra uomo e donna a parità di prestazione. Ora, io non voglio addentrarmi più di tanto in questo discorso spinoso, mi è venuto in mente però una sorta di parallelismo con quanto hai detto tu stasera. La precarietà e la discriminazione di oggi sono riscontrabili nella storia anche attraverso gli approcci e i riscontri che le donne hanno avuto nell'arte. Cercherò di essere più chiara. Io, per esempio, come Rosina, insieme a lei, amiamo moltissimo Artemisia Gentileschi perché è stata una grande, e poi perché è stata di fatto la prima donna della storia ad essere stata processata per stupro. Lei è stata stuprata e di fatto ha subito un processo. Ma i problemi di Artemisia non sono stati solo quelli legati allo stupro e al processo. Per molto tempo la sua bravura non è stata riconosciuta e spesso alcune sue opere venivano addirittura attribuite al padre Orazio. Ora, forse sarà vero che magari il mio pensare è condizionato dall'essere femminista e pure lesbica, ma io sono propensa a credere che il più delle volte sia avvenuto il contrario, cioè che il padre Orazio spacciava per propri i dipinti della figlia. Magari non lo faceva apertamente, ma di sicuro non smentiva. Però questa storia di Artemisia mi fa pensare che, come è accaduto per lei, anche per altre donne artiste sia stato negato il riconoscimento del proprio valore. Ed è proprio questa la conferma che ti chiedo, anche in base al ricordo che tu hai accennato prima del tuo essere bambina che amava disegnare, che per anni poi ha smesso di disegnare perché non aveva punti di riferimento, quindi non lo vedevi neanche in prospettiva una possibilità del genere. Sì, ci sono tante domande in quello che tu mi sì. chiedi, tutte si intrecciano, però proviamo a rispondere come dire, almeno a una o due. Allora, intanto, proprio partendo da Artemisia Gentileschi, questo ci dice che molte donne che hanno potuto avere uno spazio nella storia dell'arte hanno avuto alle spalle comunque un padre artista. Mm-mm. Questo vale anche, o comunque un padre che le ha sostenute. Mm-hmm. Di questo poi anche nel corso vedremo i pro e i contro. Comunque, nel caso di Artemisia Gentileschi, questo ha voluto dire che ha potuto frequentare il laboratorio del padre. Sì. Allora, questa libertà che lei, anche perché era brava, questa libertà che lei si è presa e che il padre le ha dato, le ha però l'ha esposta allo stupro. Certo. Di un collega del padre, tale Agostino Tassi, veramente insomma anche un certo. personaggio poco limpido, ma non è questo quello che ci interessa riguarda. Sì, certo. Quello che ci interessa è quello che dicevo prima a proposito della donna modella, musa, ispiratrice, cioè se una donna frequenta l'arte o comunque un laboratorio, allora non è una donna seria. Certo. E quindi tu la puoi stuprare, tant'è che tra l'altro lei era molto giovane e il processo, la cosa interessante è che il processo che seguì fu torturata Artemisia, certo. perché confessasse, c'è cioè una cosa che ha che subito, non aveva, cioè, esatto. tra l'altro quello che veniva chiamato la tortura del pollice, per cui rischiava di perdere le dita proprio, ma che scherzi, esatto, cioè. Qui per un artista era proprio il massimo della, cioè ti confesso della, tutto quello che mi chiedi se mi fai una cosa, cioè. Della disgrazia, quindi questo è un aspetto della questione, per cui diventare una professionista per Artemisia è stato un lavoro lungo e faticoso, in cui però rientra anche questo discorso che tu dicevi delle opere che il padre probabilmente lei ha collaborato a delle opere del padre, il padre le ha mostrate al mondo solo come sue. Certo. Questo avveniva in parte anche per altri allievi, anche maschi, perché come dire, stare dentro una scuola dopo ti faceva diventare un maestro. Dov'è la differenza con una donna? Con una donna la differenza sta nel fatto che difficilmente le donne diventavano dopo maestre di una scuola. Certo. Quindi quell'essere usate era fine a se stesso, mentre negli uomini se il discepolo del Tiziano faceva i fondali, dopo sarebbe diventato un grande artista. E se una donna faceva i fondali rimaneva, era funzionale a qualcun altro, come la figlia del Tintoretto, esatto. Cioè, voglio dire, anche lei ha lavorato ai quadri del padre, però dopo non è riuscita ad andare avanti, anche perché qui si deve aggiungere un'altra cosa di cui noi oggi ci dimentichiamo perché viviamo un'altra vita: si moriva molto presto di parto e molte artiste, molte donne, certo. Sono morte giovanissime, certo. al primo parto. Così, questo, come dire, un altro aspetto, certo. Che incide sulla vita delle, anche perché delle, insomma, donne. Da sempre le donne sono state considerate anche semplici contenitori, per cui poi se morivano di parto che problema c'era? L'importante è che si salvasse il figlio, no? Senti, io direi di fare un'altra pausa perché abbiamo parlato tantissimo, sono tre quarti d'ora che parliamo. Io ti volevo far sentire questa canzone che tra l'altro prima mi dicevi di conoscere già, ed è una canzone in dialetto cantata da un gruppo di sole donne che hanno fatto tutto un lavoro di ricerca storica anche di canzoni molto molto antiche. Loro si chiamano Le Assurde, il CD si chiama Fate e la canzone che ho scelto è La figlia dell'Urè. Hey! noi vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87 e 900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che ci hanno mandato un loro messaggio ed hanno continuato a scriverci rimanendo con noi anche durante l'estate, durante il rientro dall'estate e anche adesso. Io lo so che ci state ascoltando. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove, ma potete anche darci soltanto un piccolissimo riscontro. Il più semplice è quello del trillino e basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa, di cui ricordo il numero è 06 49 17 50, una sola volta per poi riagganciare e noi capiremo che siete con noi. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare 338 41 46 682, oppure potete iscriverci attraverso la posta elettronica al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, oppure inviarci un fax allo 06 68 64 201. Ma c'è anche chi non è informatizzata e quindi, per le amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo anche il telefono della radio 06 49 17 50 ed il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi 338 41 46 682. Come voi sapete, in questi ultimi tempi si sono intensificati proprio le violenze contro le donne, mi pare tra le altro che hanno fatto tutta le compagne del martedì femminista e lesbico abbiano precedentemente parlato proprio e fatto una trasmissione su questo argomento, tant'è che mi pare che il 25 ci sono pure una serie di manifestazioni. Ora il problema qual è? È che oltre a questo si intensificano anche gli attacchi omofobici nei confronti delle lesbiche così come degli omosessuali. Infatti leggevamo proprio oggi in cronaca di Roma che all'Aristofane, al liceo del Tufello, sono state trovate delle scritte di stampo nazista e contro le omosessuali. Infatti si era scritto via le lesbiche dalla scuola. Pare che addirittura al Galilei, all'Istituto Galilei, alla zona Manzoni, l'altro giorno una ragazza è stata colpita da un pugno in faccia per le sue critiche ai cori fascisti. E ancora al Mameli, al liceo dei Parioli, due ragazzi aggrediti dal blocco studentesco Movimento Giovanile della Fiamma Tricolore. Quindi che dire insomma di questi attacchi che continuano, insomma, di violenza poi anche fisica nei confronti delle donne e delle lesbiche. Vi vogliamo soltanto leggere così insomma l'articolo, un po' dell'articolo che era apparso su questo episodio all'Aristofane, perché lo riteniamo di una gravità assoluta e soprattutto riteniamo insomma che ci deve essere un intervento da parte di tutte le istituzioni a salvaguardia proprio insomma dell'integrità e anche del di tutto ciò che ne consegue. Infatti dice l'articolo, sulle mura del liceo sono comparse scritte di insulti e scherno contro una coppia di studentesse gay e immediata all'Aristofane è scattata la reazione. Alunni e bidelli armati di vernice hanno cancellato la frase via le lesbiche dalla scuola, apparsa sui muri perimetrali insieme con svastiche e croci celtiche. Ho parlato con le ragazze in questione per tranquillizzarle, ha spiegato la vicepreside Wanda Macri. Il clima è comunque sereno e non soffrono di alcun problema di segregazione o esclusione. Ieri sono scesi in campo anche associazioni ed esponenti politici. Inoltre l'Arcigay Roma ha richiesto l'intervento dell'assessore comunale alla scuola Maria Coscia e del presidente del quarto municipio Alessandro Cardente. Chiederemo anche a quest'ultimo di aiutarci a dialogare con i dirigenti dell'Aristofane, che al momento ci sembrano indifferenti afferenti a tale gravissimo evento, e per fare subito poi un incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti, ha spiegato tutto ciò, lo ha spiegato il presidente Fabrizio Marrazzo, mentre all'assessora Coscia chiederanno di iniziare a più presto il progetto sul bullismo scolastico contro l'omofobia rivolto agli studenti delle scuole superiori. Certo, anche perché poi nelle scuole sono anni, quando si parla di razzismo chissà perché si pensa sempre soltanto agli extracomunitari. Allora, se nelle scuole si è cominciato da un certo numero di anni a stoppare gli insulti contro gli extracomunitari, è difficile che qualcuno intervenga quando ci sono degli appellativi che sono discriminanti e discriminatori per il mondo gay. Per quanto riguarda gli interventi, noi come Casa Internazionale delle Donne, c'è stato un gruppo di noi che si è riunito rispetto a questo episodio proprio questo pomeriggio, e ci è arrivato il fax di una cosa scritta da Edda Billy. Se la vuoi leggere un attimo, è diciamo Sì, lo leggo così perché è breve. Un becero, disgustoso rigurgito nazifascista contro il lesbismo. Noi vi diciamo attenti, attenti tutti, attente tutte. Abbiamo memoria degli stermini dei lager e dei triangoli rosa. Fermiamoli finché siamo in tempo. A questo punto, proprio per far capire che noi abbiamo voglia anche di divertirci, di stare bene, perché ci spetta di diritto e riteniamo che sia una cosa importantissima, volevamo darvi un ulteriore appuntamento, quello proprio di questo sabato, ecco. L'appuntamento di sabato 18 novembre riguarda una serata che come CFS abbiamo organizzato, una serata dal titolo Il calendario delle lesbucce. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'insostituibile contributo delle donne che hanno ideato questo calendario lesbico. La serata prevede una cena di finanziamento, giochi e un po' di musica, il tutto chiaramente a partire dalle ore 19:30. Per noi è doveroso ricordare che questa iniziativa, in corso d'opera, ha avuto qualche modifica. Perché? Grazie alle donne della linea lesbica di Roma siamo venute a conoscenza di una situazione di emergenza riguardanti due giovani lesbiche che hanno bisogno della nostra solidarietà. Assieme ad alcune donne della linea lesbica di Roma e ad alcune donne di Arci Lesbica abbiamo creato una rete di solidarietà che ci vede tutte impegnate. Pertanto noi del CLR dedicheremo una gran parte del ricavato della serata a queste due giovani lesbiche. Questo sarà anche possibile grazie all'accordo che abbiamo preso con le ideatrici del calendario, le quali si sono immediatamente dimostrate favorevoli a questa donazione, e alle donne della linea lesbica di Roma che si sono impegnate a darci una mano. Linea lesbica amica 06 41 80 211. Per non sentirsi l'unica, a volte basta parlarne. 06 41 80 211. Di lunedì dalle 19 alle 21. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Comunque, quello che ci interessava far capire e comprendere è che un'iniziativa del genere, che vede sicuramente la partecipazione di questa solidarietà che ci vede tutte impegnate, è anche una forma di risposta a chi vorrebbe vederci chiuse in casa, a chi vorrebbe che noi aderissimo a modelli non nostri. Quindi è anche un modo per rivendicare il nostro essere. Venite, perché la serata prevede comunque una cena di sottoscrizione, ci sovvenzioniamo sia come gruppo, e poi ecco c'è questa cosa della parte del ricavato che andrà a queste due ragazze, e poi però ci saranno dei momenti di gioco, di svago, di felicità dello stare insieme, per ribadire il concetto che essere lesbica è bello, va bene? Allora, il coordinamento Lesbiche Romane vi ricorda che potete aderire ancora al corso di cui abbiamo parlato oggi. Seppina, vuoi dare qualche informazione? Sì, adesso ricordo insomma che l'iniziativa si chiama La donna spettatrice dell'arte ed è un ciclo di incontri curato da Pina Nuzzo, e che gli incontri si svolgeranno presso il nostro centro femminista separatista in via San Francesco di Sales 1B. Vi ricordiamo che il programma prevede un incontro giovedì 30 novembre, La donna musa, ispiratrice e spettatrice femminile; giovedì 14 dicembre 2006, La modella, bambina, adulta, prostituta. Tra il secondo e il terzo incontro, in data poi da definire con le partecipanti, è prevista una visita collettiva serale alla mostra Matisse e Bonnard, Viva la pittura, che è tenuta al complesso del Vittoriano. Inoltre, giovedì 11 2007, da modella ad artista. L'incontro successivo è giovedì 25 gennaio 2007 e si parlerà l'autoritratto. Giovedì 8 febbraio 2007, i segni, la rappresentazione e il corpo. È solo un'ultima cosa, giovedì perché... 22 febbraio, considerazioni collettive, sì? Scusa Kate, devo dire questa cosa importante, che gli incontri si svolgeranno dalle ore 19 alle ore 22 e che per partecipare al corso è prevista un'iscrizione di 60 euro come contributo spese. Vi ricordo ancora che il corso è a numero limitato, pertanto vi invitiamo ad iscrivervi entro il 30 novembre e che soprattutto l'evento è aperto alle sole donne. E per avere ulteriori informazioni potete contattare noi del CLR al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp, oppure potete telefonarci il giovedì sera a partire dalle ore 21 allo 06 6864 201. Il coordinamento Lesbiche Romane ringrazia Pina Nuzzo per aver fatto la trasmissione insieme a noi, vi dà appuntamento a martedì prossimo con la replica di questa trasmissione, e ciao a tutte e a martedì prossimo. Ringraziamo ancora Pina e grazie a tutte voi per averci ascoltato. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got